Giovedì 24 gennaio del 2013, 87.900 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa, dal 1977 senza padrini, senza padroni. La radio è di chi se la sente può contribuire a farla vivere sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. 2001, cioè Via dei Volsci 56 00185 Roma. Oppure basta consultare il sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce sostieni, troverà la modalità PayPal. Questa è Visionari e la scaletta la trovate sul sito alla voce trasmissioni Visionari. Gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 24 gennaio, i nostri suggerimenti, le nostre indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo, poi gli altri appuntamenti della settimana tra festival e rassegne, il link per riascoltare la puntata precedente e l'archivio del 2013 e del 2012. Diamo inizio alle telefonate con i nostri ospiti, ricordandovi il nostro contatto per quanto riguarda la posta elettronica visionari@ondarossa.info, mentre ci potete ascoltare anche in streaming dal computer andando sul sito della radio dove c'è sulla home page ascolta la diretta. Siamo in collegamento con Nadia del Zapruder Filmmakers Group, ci sei? Ciao, ci sono, buongiorno. Tanto benvenuta a Visionari su Onda Rossa. Grazie. Allora, raccontaci intanto un po' di questo gruppo di cui sono venuto a conoscenza durante il Festival del Cinema di Roma, dove avete presentato due lavori. Allora, come nasce la vostra esperienza e come si è sviluppata? Sì, ok. Beh, Due Lavori è anche la sigla del Festival di Roma. Bene, per dirla tutta, certo. Di cui andiamo molto fieri. Beh, come nasce Zapruder, siamo in qualche modo chiamati un collettivo e ci occupiamo di quello che potrebbe essere definito cinema d'artista, ma anche installazioni e anche più genericamente dello spettacolo dal vivo. Sì. La nostra è un'organizzazione per niente commerciale ed è molto indipendente. Dal 2000 ci siamo, è dal 2000 che produciamo i nostri film, li produciamo e appunto in qualche modo li distribuiamo attraverso i festival, che siano di cinema o anche di teatro. Da quante persone è composto questo gruppo di Zapruder? Allora, come l'abbiamo fondato con David Zamagni, Monaldo Moretti ed io che sono Nadia Ranocchi. Poi nel tempo preziose collaborazioni si sono unite, hanno portato la loro forza all'interno del nostro lavoro, come Francesco Brasini, che è un musicista, e Andrea Marini, che è un grafico con cui lavoriamo sul set e sull'immagine digitale, e Mattia Dallara, con cui lavoriamo alla musica. Sì. Senti, prima di parlare anche dell'iniziativa che ci sarà la Cineteca di Bologna domani 25 gennaio, ci fai qualche esempio di opera che avete messo in campo in questi anni di attività, qualcosa a cui tenete particolarmente da segnalare? Sì, beh, diciamo che in effetti, parlando dei lavori, è più semplice forse anche capire la complessità di questa nostra metodologia di operare. Abbiamo iniziato lavorando con la pellicola, nella commistione tra il video e la pellicola, quindi sì. Lavori come Spring Roll, che hanno girato molti festival tutt'oggi, del 2001, e tutt'oggi ancora viene presentato in giro in diversi ambiti in Europa, soprattutto, scusami, Poi ecco, e appunto proprio questa modalità assolutamente indipendente, quindi di far di necessità virtù, che consiste nel arrivare a far fronte alla mancanza di finanziamenti con una struttura tutta personale e quindi molto molto artigianale per tutta la nostra produzione, ha portato prima appunto dopo il lavoro con la pellicola, sì, e a lavorare anche con l'immagine in 3D, l'immagine stereoscopica. Uh-huh. Dal 2005 abbiamo cominciato i primi esperimenti appunto anche in un momento non sospetto per la stereoscopia. Sì. E ad oggi che siamo in procinto di debuttare con questo spettacolo, evento, noi lo chiamiamo un happening, di una durata di 12 ore su un film che è Il Che Viva Messico di Eisenstein. Sì. E l'iniziativa ha come titolo Fine della specie, se non sbaglio. Esatto, sì, fine della specie un po' perché ci riguarda abbastanza questa considerazione sulla complessità e inattendibilità della categorizzazione di quello che è il lavoro, il lavoro anche all'interno anche il lavoro cinematografico, appunto. Noi ci consideriamo dei filmmakers, anche se in effetti ci ritroviamo a presentare dei progetti che vengono prima rappresentati dal vivo, come sì, se fosse proprio un set in presenza del pubblico e degli attori che chiamiamo ad interpretare questi ruoli, che di solito coincidono esattamente con quello che possono essere le loro attitudini o azioni quotidiane. Sì. Diciamo. Sono un po' confusa. Non ti preoccupare. Un delirio, ma sì, immagino. L'installazione di tutto quanto, sì, la predisposizione della sala cinematografica, proprio perché questo Fine della specie arriva è costruito sull'idea di lavorare nella sala cinematografica con in live e abbiamo invitato artisti, registi e teorici e filmmakers a individuare una porzione del film di Eisenstein, poi in realtà appunto nel montaggio di Aleksandrov ritroviamo a tratti e forse Eisenstein, e ognuno di questi autori che si succederà nella giornata di domani ha appunto lavorato, agito, pensato, ripensato o ricostruito l'idea del suo accostarsi a questa porzione di film. Quindi questa 12 ore è articolata in diverse tessere, come in un mosaico, insomma, in cui c'è l'intervento di vari autori e autrici. Sì, esattamente. Un mosaico, sì, chiamiamolo un rimontaggio, probabilmente anche un accostamento, proprio un, sì, accostamento per immagini che può produrre in alcuni casi un oscuramento della pellicola, in altri casi un affiancamento e anche una destinazione dell'immagine o di quel contenuto si può ricreare un vortice all'interno di quel contenuto, è un prisma del film, del film che vive a Messico, quello che accade. E domani tra i partecipanti abbiamo, appunto, si succederanno, e l'ordine è determinato dalla loro scelta rispetto alla porzione di film che andranno ad affiancare. E, vediamo dunque, chi, fammi pensare. No, io intanto volevo Zeus, che sono un gruppo musicale, e Francesco Faz Brasini, Zapruder, e poi Emanuele Beccheri, che è un artista un artista toscano, si occupa di arte visiva, direi, e poi Rinaldo Censi, Claudia Castellucci, Romeo Castellucci, e ancora, scusa, ma non ho proprio. Non ti preoccupare, no, io intanto sono sotto mano nulla. Nadia, volevo chiederti intanto, chiaramente voi avete un sito internet, Zapruder, sì, e esatto. Volevo chiederti, per avere una qualche disponibilità della vostra opera, vedere cosa avete fatto finora, il riferimento può essere quello? Allora, sì, Zapruder, in realtà il sito è zapruderi.com ed è un sito esclusivamente per che riporta tracce del nostro lavoro stereoscopico, quindi sarebbe consigliabile avere degli occhialini anaglifi, quelli rosso e ciano, e ci sono quindi all'interno del sito varie parti di diversi film della nostra produzione stereoscopica. Mm-hmm. In effetti hai ragione, ma hai detto raccontaci qualcosa, fai dei titoli dei vostri lavori, ma è complicato, certo, no? Appunto, certo. Tanti anni che lavoriamo, e nonostante appunto questa modalità indipendente, sono varie le produzioni che si sono successe nel tempo. Mm-hmm. E molte sono state presentate al Festival del Cinema di Venezia, come il nostro primo lungometraggio che si chiama All Inclusive, un primo lungometraggio e in 3D, e altre hanno avuto, proprio per la difficoltà del meccanismo stereoscopico che abbiamo utilizzato, quindi quando abbiamo iniziato con questa tecnica, decidendo e costruendo noi stessi dispositivi di proiezione, scusami, più che per la proiezione, per la ripresa, ci siamo ritrovati con del materiale che eravamo in grado solo noi di poter riproiettare, sì, e nasce quindi in questo modo quello che noi abbiamo chiamato e definito il cinema da camera, proprio perché in qualche modo le gallerie o gallerie d'arte, musei o festival di teatro ci invitano per presentare il lavoro in 3D. Oggi le sale cinematografiche sono state, buona parte delle sale cinematografiche hanno la possibilità di proiettare in 3D, ma a tuttora non è così semplice o scontato, certo, poter mostrare un lavoro così come esattamente è stato pensato e poi costruito. Mm-hmm. Senti Nadia, allora io ricordo l'appuntamento di domani, fine della specie, alla Cineteca di Bologna. Io ti auguro insomma, in bocca al lupo, un abbraccio e magari a risentirci presto. Un'altra cosa, allora, scusami, visto che siamo su fine della specie, sarà possibile domani in streaming seguire una radiocronaca di quanto accadrà direttamente dalla sala cinematografica a cura di Lorenzo Donati. Benzio. E lo streaming lo si può seguire sul sito della Cineteca di Bologna, quindi www.cinetecadibologna.it. Io ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata. È stato un piacere. A risentirci presto. Saluti e a presto. Ciao Nadia. Ciao. Nadia Ranocchi del Zapruder Filmmakers Group per l'evento Fine della Specie alla Cineteca di Bologna domani 25 gennaio. Proseguiamo. Ritroviamo Piero Pala, ci sei Piero? Sì, ci sono. Grazie. Ben ritrovato. Allora, ritrovato anche tu e un saluto a tutti come al solito. Allora, con te per parlare di una retrospettiva che con la tua associazione avete messo in piedi da domani al 27 gennaio, Danocchi, esplorazioni interiori e legami sociali al Film Studio. Piero, raccontaci un po'. Allora, questo è un progetto a cui teniamo molto anche perché è realizzato in concomitanza con la mostra dei 45 anni di attività del Film Studio. Il sottoscritto in particolare si è formato in una delle realtà secondo noi più importanti, no, per la diffusione del cinema d'essè, d'autore o sperimentale. Sì. Questo è un progetto, diciamo, nato attraverso una conoscenza del regista croato di cui ho avuto modo di partecipare a una giuria internazionale e quindi di visitare la Croazia e scoprire tutta una serie di opere filmiche, video ma anche installative. E con il tempo è nata quindi la possibilità di presentare il lavoro di Dan, che è uno dei principali artisti che opera con i media, quindi non solo con i formati cosiddetti ridotti del cinema amatoriale, penso al Super 8, al 16 mm, ma anche con tutta una serie di dispositivi che si sono succeduti, no? Nel tempo. Sì. Penso alla computer grafica, penso soprattutto al web, all'internet. E Dan è partito come un artista croato che vinse una residenza in Olanda, è stato per oltre quasi 10 anni, diciamo, residente in uno dei maggiori centri di produzione di cinema sperimentale video, che adesso è stato inglobato nel Netherlands Institute, e era il Montevideo di Amsterdam, e l'ha avuto modo quindi di utilizzare tutta la tecnologia che dai primi anni 80 veniva messa a disposizione di tutta una serie di artisti, e ha incominciato quindi a integrare, perché lui è partito principalmente utilizzando il Super 8, queste riprese con tutta una serie di funzioni di specifiche che mettevano a disposizione la tecnologia, e quindi integrando a queste riprese elementi di grafica e elementi di varia natura. Senti Piero, quante opere presenterete durante questi 3 giorni? Allora, presentiamo la gran parte dei film sperimentali che vengono inclusi in 2 programmi, e in più i suoi 3 lungometraggi che sono, in particolare ci tengo a fornire alcune spiegazioni su questi 3 lungometraggi, che sono abbastanza esemplari del suo processo artistico, anche della sua evoluzione. Dan era residente, dopo l'Olanda ha vinto una borsa, era residente a New York e la sua residenza è avvenuta in concomitanza con l'attacco alle Torri Gemelle. E è stato forse l'unico regista, o tra i pochi, che disponeva quel giorno, era in città, lui abitava a pochi passi dal World Trade Center, e ha potuto documentare tutto quanto è accaduto e ha sempre negato l'utilizzo di queste riprese per fini giornalistici, avendo non pochi problemi, perché ti puoi immaginare che alcune riprese sono dovute comunque passare per il controllo dei vari servizi segreti, dell'FBI e quant'altro. Sì. E questo materiale è servito a lui di ritorno in Croazia per complementare con un progetto a cui negli anni ha maturato nella sua testa, così, e ha utilizzato queste riprese combinandole con una sceneggiatura, diciamo, abbastanza eclettica, e quindi è una sorta di lavoro. Quel film si chiama The Performance, dove combina appunto delle immagini cosiddette di natura documentaristica con altre invece dove è stato allestito un set, ci sono gli attori che recitano. E altro film esemplare dimostra la sua ecletticità è questo Oxygen 4, che è stato realizzato nel 2004 e che è proprio uno dei maggiori esponenti della media art, Lev Manovich, ha riconosciuto come una delle prime opere che è nata da un processo di compartecipazione del pubblico, e è infatti un'opera che è stata concepita grazie anche all'interazione col pubblico, che ne ha deciso gli sviluppi, parte del montaggio, parte delle scene, e questo tutto attraverso una serie di step espositivi in gallerie, in centri culturali e poi attraverso il web, fino ad arrivare all'ultimo lavoro, che è una sorta di pseudo classico polar o noir o thrilling, concepito però sempre con un approccio, diciamo, di destrutturare, diciamo, quelli che sono i codici tradizionali del cinema, e quindi fornendo una sorta di struttura drammaturgica totalmente non legata, diciamo, a una conseguenzialità temporale, ma anche a una lettura, diciamo così, persuasiva. E i film di Dan si basano quindi proprio in mettere in discussione queste attese, queste aspettative che lo spettatore solitamente sviluppa, sì. Si sviluppa durante la lettura o la visione di un film. Senti. La retrospettiva, che è sono la prima volta che vengono presentati questi lavori, viene presentata dal 25, come dicevi tu, al 27, e si sviluppa dalle 5 di pomeriggio fino all'1 di notte attraverso delle repliche, vari programmi, e Dan è presente a tutte le proiezioni, e in contemporanea chi ha possibilità o interesse può visitare anche la mostra del Film Studio per rendersi conto veramente come il Cinema Film Studio ha tutto quello che ha realizzato nel corso dei 45 anni, dal primissimo passaggio di Nanni Moretti con i film Super 8, alla prima retrospettiva su Pupi Avati, alle uniche prime proiezioni di Andy Warhol al Film Studio, più tutto il cinema underground, della contestazione, la Nouvelle Vague. Sicuramente chi ha interesse trova tutta una serie di documenti straordinari, quelli di Monicelli, dei Taviani e di altri, che in difesa del film studio sollecitavano le istituzioni o le varie aziende di fornitura dei servizi, che intimavano al film studio il pagamento, se non la chiusura, certo, per i problemi di cui ognuno di noi almeno una volta, se non più di una volta, talvolta incappa nella vita, no? Di certo. Situazioni, diciamo, di morosità o di difficoltà a proseguire nella propria attività, e quindi noi siamo molto contenti di aver inaugurato la nuova stagione del Film Studio in concomitanza con questa mostra, con un artista che reputiamo anche da esplorare per chi ha interesse a conoscere come un artista di formazione, diciamo così, da cineasta si confronta con tutti i nuovi media che si stanno, diciamo, sostituendo ai dispositivi, no, originali di proiezione, di ripresa, che solitamente la nostra associazione ha proposto, no, all'interno del, certo, film studio. Senti Piero, in chiusura diamo i riferimenti internet per chi volesse saperne di più sul programma? Assolutamente, allora il sito della nostra associazione, la Complus Events, è sempre il solito, che è www.complusevents.com. Si può visitare anche il sito del film studio, che è www.filmstudioroma.com, e la serata di La Verità si inaugura oggi con un incontro che però è tutto esaurito, che si svolge, siamo ospitati da un'associazione che come la nostra ha un archivio, principalmente il loro è video, che si chiama Home Video, e quindi ci tenevo anche a invitare i vostri ascoltatori a visitare il sito di Home Video e anche Open Video Project, che inaugurerà, diciamo, questa retrospettiva che parte da domani alle 17 per tutto il weekend, e di consultare questi siti per avere maggiori informazioni sulla durata dei film, le sinossi, certo, e qualche altro hanno necessità di conoscere. Piero, ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Volentieri, e grazie a te come al solito. Ciao Piero. Ciao, ciao Federico. Piero Pala di Complus Events per la retrospettiva Danoki, esplorazioni interiori e legami sociali al Film Studio qui a Roma dal 25 al 27 gennaio. Gabriella Romano, ben ritrovata a Visionari su Onda Rossa. Salve. Allora, noi ci eravamo conosciuti all'ambasciata svizzera per la presentazione del Festival di Locarno, se non sbaglio, vero? Sì, hai buona memoria. Sì, è vero. Perché lì già un po' di tempo fa, insomma. Un po' di tempo fa abbiamo parlato del tuo lavoro sulla donna che attentò alla vita di Benito Mussolini, Violet Gibson. Adesso parliamo con te. Avevo visto mi era arrivata una mail praticamente il documentario che io ho fatto, che è seguito al libro, su Lucy, il libro si intitolava Il mio nome è Lucy, il documentario si intitola Essere Lucy. Il documentario è adesso disponibile in distribuzione pay per view. ed è una distribuzione, si chiama On the Docs. On the Docs, ecco, non mi ricordavo, esatto. È una piattaforma di distribuzione di documentari italiani. E tra l'altro mi ero incuriosito sia perché ti conoscevo già per il tuo precedente lavoro, sia per la tematica, ma poi è arrivata in contemporanea ad una scadenza, perché il 27 gennaio è la giornata della memoria, ed essere lusi, ora ci spiegherai di cosa parla, insomma. Esatto, sì, abbiamo pensato a questa uscita proprio in concomitanza con la giornata della memoria. Lucy è una transessuale, oggi ha 88 anni, io l'ho intervistata già alcuni anni fa. Il libro narra la sua vita e Lucy ha vissuto il fascismo nella Bologna degli anni 30 ed è stata, dopo rocambolesche avventure, è stata deportata a Dachau come Triangolo Rosso, come disertore. Quindi così l'unicità della sua esperienza è abbastanza evidente. Tornata poi a Bologna nel dopoguerra, si è trasferita a Torino, come molti facevano, per trovare lavoro, e ha iniziato il suo percorso di riassegnazione di sesso, si direbbe oggi, comunque il suo periodo di transizione, fino all'operazione che è avvenuta all'inizio degli anni Ottanta, quindi diciamo leggermente prima di quando fosse possibile farla in Italia, infatti lei l'ha fatta all'estero. E quindi così la storia di Lucy è abbastanza, direi, è molto unica nel panorama italiano. Il documentario parla di più della deportazione a Dachau, perché è stato girato in occasione della celebrazione che è stata fatta nel 2010, che era il 65esimo anniversario della liberazione dei prigionieri di Dachau. Quindi noi siamo stati invitati, Lucy è stata invitata, siamo andati, e il documentario è più incentrato attorno a questa tematica, anche se poi si parla di tutta la sua vita, il fascismo, il dopoguerra, eccetera. Però lei torna per la prima volta a Dachau dopo 65 anni, e quindi questo viaggio poi mette in circolo tutta una serie di ricordi. Forse il libro si concentra di più su altri argomenti e meno sul Dachau. Ovviamente tornare sul luogo ha rimesso in circolo molti ricordi che nella prima intervista forse non c'erano. Gabriella, tutto era nato dalla conoscenza personale, nel senso avevi conosciuto Lucy e poi è nata questo desiderio di raccontare la sua storia? Sì, no, nel senso io non la conoscevo prima. L'ho conosciuta tramite un'amica che faceva una tesi di laurea sul ricordo del dolore, e allora lei aveva incontrato Lucy, aveva parlato con Lucy rispetto al suo ricordo dell'internamento, della deportazione, insomma, è la parola giusta, e quindi me l'aveva poi presentata, perché io ho fatto altri lavori, mi sono interessata della condizione degli omosessuali in Italia durante il fascismo, e lei me l'ha presentata. Quindi un po' già sapendo che io sarei stata interessata a questa sua esperienza, diciamo. Prima di quello non ne sapevo nulla dell'esistenza di Lucy. Questo anche a proposito della giornata della memoria, chiaramente viste le dimensioni si parla soprattutto dell'olocausto, però c'è stato anche uno sterminio di ebrei e c'è stata anche una persecuzione degli omosessuali, ecco, che è un argomento di cui già ti sei occupata. Sì, io me ne sono occupata a varie riprese, in realtà è stato molto difficile raccogliere la testimonianza di omosessuali e lesbiche che parlassero del fascismo e della loro esperienza del fascismo. Questo perché in Italia il fascismo è stato perseguitato in modo molto diverso, molto più subdolo forse rispetto alla Germania, e quindi non c'è stato poi un procedimento di rimbalzo, diciamo, dopo. La repressione dell'omosessualità è continuata per noi anche negli anni 50. E quindi gli omosessuali italiani sono in generale, diciamo, almeno fino a anni molto recenti, abituati a vivere una zona di silenzio e di invisibilità completamente underground, diciamo, sono sempre stati molto coperti. e quindi è stato molto difficile trovare delle persone, sebbene siano passati così tanti anni da quegli anni della dittatura, sono stati pochi quelli che mi hanno poi narrato alcune vicende, e anche coloro che mi hanno narrato le loro storie hanno narrato molto poco, pur apprezzando il coraggio di questi pochissimi che hanno accettato di farsi intervistare, quasi nessuno ha accettato di rivelare il suo nome, moltissimi hanno voluto anche che fosse celato il volto e in alcuni casi hanno anche chiesto di che fosse doppiata la voce per non farsi riconoscere. Mm-hmm. Quindi questo forse dà la dimensione, certo, di come la repressione del fascismo sia riuscita a essere introiettata e sia durata per quasi un secolo. Anche perché per quanto riguarda l'orgoglio GLBT bisogna aspettare anni recentissimi, insomma. Quella generazione, diciamo la generazione di prima della guerra, si è trovata molto distante da chi poi, appunto, chi è nato nel dopoguerra e oltre, e che ha fatto del coming out e della dichiarazione dell'omosessualità una esperienza fondante della propria identità. Chi è nato e chi ha vissuto il fascismo non ha molto condiviso questo atteggiamento, né quelli più giovani hanno poi capito e hanno voluto ascoltare l'esperienza di chi è nato prima, nel senso che poi comunque c'è stata proprio una frattura completa. Anche per questo le esperienze degli omosessuali e delle lesbiche che hanno vissuto il fascismo non è stata raccolta in massima parte. Mm-hmm. C'è stato, diciamo, un disinteresse per molti anni, proprio perché era un retaggio che si voleva in qualche modo dimenticare, si voleva superare, ecco, sì, diciamo, sì, così. Sì. Senti Gabriella, allora ci ricordi per poter fruire di Essere Lusi, il tuo documentario, cosa bisogna fare in rete? Sì, bisogna andare sul sito www.onthedocs.it. È una piattaforma di distribuzione di documentari italiani, si clicca su Essere Lusi e si pagano €2,99 per la visione. Bene, Gabriella, è stato un piacere come sempre, a questo punto ci diamo appuntamento per le prossime novità. Grazie mille, a presto. A presto, un abbraccio, ciao Gabriella. Arrivederci. Gabriella Romano, regista del documentario Essere Lusi. Questo è Visionari su Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info per comunicare con noi, e poi potete anche ascoltarci in streaming dal sito internet della radio www.ondarossa.info. C'è l'opzione Ascolta la diretta. C'è anche la pagina Facebook della trasmissione. Bene, siamo in collegamento con Beppe Attene di Istituto Luce Cinecittà, che ci parlerà della quarta edizione dell'Italia che non si vede, rassegna itinerante del cinema del reale che attraverserà 40 città italiane a partire dal 28 gennaio per un totale di 150 appuntamenti. Beppe, ci sei? Eccoci qui. Oh, intanto benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Come va? Tutto bene, tutto bene. Mi sembra una mole notevole quella che avete messo in piedi. Beh, l'abbiamo messa in piedi intanto insieme a Luca, certo. Metto in grandissima parte di Luca, appunto. Sì, è un esperimento interessante, noi siamo abbastanza convinti che c'è un mercato da raggiungere, di nuovo ancora, non so quale espressione usare, per i documentari che raccontano l'Italia che non si vede più da nessuna parte. Questo tentativo va in questa direzione, sì, ne faremo altri nel prossimo periodo, ma intanto parte per primo questo, ecco. 150 appuntamenti per un totale di quante opere? Sai quali sono le cifre? Sono 10 documentari. 10 documentari. 4 sono vengono dall'Istituto Luce, e gli altri sono stati presi sul mercato in generale. Oh, mi è arrivata un comunicato da Napoli riguardante la quarta edizione di Astradoc 2013, Viaggio nel cinema del reale. Fa parte anche questa del... No. Ah, okay. Questo, per quello che so io, no. Mm-hmm. Però sai, tieni conto che effettivamente nella crisi del mercato che c'è adesso, è vero che si sta aprendo uno spazio per questo tipo di prodotto. Le sale non vengono di fatto più rifornite di film, sono costrette a stare in piedi con programmazioni spesso deludenti e così via, iniziano a ragionare sulla possibilità di aprirsi anche altre cose, ecco. Le città saranno 40 e le sale saranno sia cineclub che monosale, dici un po' di... Sì, saranno sia cinecircoli tradizionali, sì, sia quelle sale che partite dall'esperienza di cinecircolo sono poi diventate vere e proprie sale cinematografiche, sempre però con la caratteristica, come dire, della monosala e del non diventare un multiplex. È previsto anche l'incontro con gli autori? Tutte le volte che sarà possibile, ovviamente, è previsto l'incontro con gli autori e in generale forme di discussione e di approfondimento. Tieni conto però che non occorre mai, come dire, sovrapporsi alla volontà dei circoli del cinema. Certo. Quindi loro hanno questa offerta, sceglieranno e si muoveranno sulla maniera più corretta per ognuno di procedere. Come è strutturato il calendario? C'è uno o più eventi settimanali? Ma questo in realtà dipende molto dai circoli, nel senso che da adesso partiamo il 28 e 29 da Pisa, dal Cinema Arsenale, e poi ci muoviamo per tutta l'Italia dando un'ampia autonomia sia di scelta rispetto a questi 10 che di programmazione, insomma. Ecco, proprio a proposito di scelta, i titoli come sono stati selezionati? Beh, diciamo che io ti posso sicuramente dire come abbiamo scelto noi insieme all'Arciucca. Certo. I nostri, presentiamo questo Ania di Roland Seiko, che è un film sullo sbarco degli albanesi in Italia a suo tempo, segue il film di Vicari, ma mi permetto di dire che presenta degli aspetti relativi all'integrazione e al rapporto fra gli albanesi e gli italiani che sono particolarmente interessanti. Certo. Presentiamo un documentario bellissimo di Pran Straller, Polvere, il grande processo dell'amianto. Sì. E lui ha seguito per diversi anni il processo relativo appunto all'inquinamento ambientale, alle stragi provocate dall'amianto, e apre tra l'altro una finestra interessante sul fatto che ancora oggi l'amianto continua a uccidere nel mondo 100.000 persone all'anno, essendo ancora lo strumento di costruzione in tutti i paesi di stato sottosviluppati. Certo. Presentiamo Terra Matta di Costanza Quatriglio, sì, che è andato al Festival di Venezia, all'ultimo Festival di Venezia, ed è tratto da un libro scritto da un analfabeta, la storia di Vincenzo Rabito, analfabeta siciliano, che si è creato una sua lingua da solo, e poi il libro è stato editato a partire dai suoi diari da Einaudi, e racconta il percorso di un italiano dagli inizi del Novecento più o meno agli anni 70. Molto bello. L'ultima cosa che presentiamo invece è un film vero e proprio, è L'intervallo di Leonardo Di Costanzo, che racconta quasi in tempo reale una piccolissima storia di amore e di amicizia tra due ragazzi confinati per una serie di motivi in un locale da parte di capi camorristi che li isolano per una serie di motivi che chi vede il film poi capirà. Però il film è soprattutto sul rapporto che si crea tra questi due ragazzi in questo spazio sospeso in cui la minaccia anche della malavita e così via si allenta per un attimo e si possono aprire spazi ai rapporti umani. Senti, Beppe, due cose. Tutti gli autori che hai citato sono stati già nostri ospiti proprio per parlare di questi loro lavori, e l'intervallo, noi ogni fine anno facciamo con dei colleghi, amici, critici cinematografici, questo gioco delle cinquine, i film preferiti tra quelli usciti in sala, e l'intervallo è risultato uno dei cinque, è arrivato quinto con 3 voti e 3 menzioni, quindi è stato gradito molto anche a livello della critica, anche se ha avuto una distribuzione piuttosto esigua. Insomma. Beh, distribuzione esigua, in realtà sarebbe un discorso da fare una volta seriamente. Il problema non è, come dire, non sta a monte nella distribuzione, sta nel problema del rapporto di questo tipo di prodotto con poi col mercato cinematografico effettivo, insomma. Sì. Diciamo che ci sono molti film che tra l'altro hanno avuto destini anche più tragici di questi. Io penso al Bel Labà, per esempio, no? Sì. Ha fatto ancora più fatica. Qui occorrerebbe ragionare di che cosa significa oggi il cinema nella coscienza collettiva, di una serie di passaggi rispetto ai quali i circoli arci svolgono una funzione preziosa soltanto di conservazione, insomma. Direi. Senti Beppe, come riferimenti per il programma diamo qualche sito internet? Penso, sai che non mi aspettavo questa domanda, penso il sito internet dell'Arciuca. Esatto, va bene. Non credo sia difficile da trovare. Sì. Bene, allora ricordiamolo, quarta edizione dell'Italia che non si vede. Certo. Rassegna itinerante del cinema del Reale a partire dal 28 gennaio, 150 appuntamenti in 40 città italiane, insomma numeri che la dicono lunga. Contare, insomma. Certo. Senti Beppe, ti ringrazio e a risentirci presto. Perfetto, grazie, arrivederci a voi. Ciao. È con noi Caterina Selvaggi, autrice del libro La relazione postmoderna, cinema e letteratura nell'era globale di Amelio Bellocchio Barthes, Garrone, Saviano e Tarantino. Caterina, ci sei? Sì, ecco. Sono qui, buongiorno a tutti. Come va intanto? Ah, va benissimo, come ho detto, buongiorno a tutti, sono lieta di essere qui. Tra l'altro il tuo libro è stato presentato 2 giorni fa qui a Roma ed è andata molto bene. È andata molto bene al Teatro Argentina, che è un luogo, diciamo così, dove il pubblico è eterogeneo. C'erano però anche, lo devo dire con franchezza, amici miei. Ed è un libro su cui ho lavorato gli ultimi tre anni e mezzo. Oh, diciamo che non è il tuo primo libro, la tua passione è il cinema, in questo caso il rapporto... La mia passione, ti devo interrompere, è il cinema e la letteratura. E la letteratura. Insieme, cioè l'una in collegamento, in raccordo con l'altra. Bene, bene, giusta precisione. Sono due espressioni della nostra cultura che ormai qualcuno addirittura fa fatica, forse ingiustamente, a separarle. Diciamo che non procedono insieme, ma si richiamano l'un l'altro. Basta pensare a cose molto banali che piacciono ai ragazzini, magari come Twilight, queste cose qui. Da un libro nasce un film, da un film addirittura si fa il libro. Ecco, questo... Ho parlato di cose un po' più, diciamo, impegnative, forse. Certo, certo. Però... Impegnative per adulti, ecco, oltre che per ragazzi. Però uno dei dati della crisi di ispirazione che sembra avvolgere questa sovrapproduzione cinematografica si manifesta un po' sia nei prequel, nelle lunghe serie invece di film che vanno dall'1 al 5 a più non posso, e poi al richiamo alla letteratura, come se fosse un appiglio per il cinema da cui trarre l'infa vitale. Circa un quinto dei film oggi sono derivati da testi che nascono letterariamente, però c'è da dire il contrario, perdonami, sì, che anche i testi scritti ormai sono scritti in funzione del cinema. Ah, ecco perché c'è questo osmosi di cui parlavo, per cui qualcuno dice che in fondo si tratta di un unico grande contenitore, e questo è su questo si fonda molto il postmoderno. Io non penso questo, però su questo ho lavorato. E a quali conclusioni sei arrivata? Anche perché, insomma, da quello che mi dici sembra un po' che la crisi di ispirazione sia reciproca ed entrambi fanno riferimento l'uno all'altra per aiutarsi vicendevolmente. No, questo libro, no, sinceramente, come altri libri che ho fatto, questo sì, si occupa di Amelio, di Bellocchio, di Garrone, di Saviano, di Tarantino, quindi di registi che non hanno una crisi di ispirazione da molti anni, una ventina d'anni sono tutti quanti, anche di più, sul campo, no? Sì. Quindi non so tu vuoi parlare di crisi di ispirazione. Io direi che c'è una ricchezza notevole in tutto il mondo, che il mondo si è ristretto attraverso la globalizzazione e si è allargato. E io penso che se c'è un un problema, forse è un problema di industria, di cinema indipendente, cinema di industria, ma autori come questi ci rappresentano in qualche maniera, sia all'Italia che all'estero, e ci rappresentano nella condizione in cui ci troviamo, ovvero sia una condizione in cui c'è interdipendenza tra sistemi, questa è la globalizzazione, tra sistemi planetari ormai, questo allargamento delle prospettive, il global è ciò che è qui, ma è anche frutto di una realtà planetaria. Volevo chiederti, Caterina, come mai hai scelto questi autori in particolare e per lo più italiani? Ovviamente io sto da questo punto di vista, mi trovo in questo punto d'osservazione. Sì. Gli italiani comunque sono grandi autori, cioè hanno grandi capacità, anche quando nascono all'estero, come Tarantino, e quindi mi viene abbastanza spontaneo, diciamo. La cosa interessante secondo me è che è il titolo, è proprio il titolo, cioè una volta si parlava di condizione postmoderna, Lyotard, no? Intorno agli anni 79-80, indicando nell'individuo il punto di riferimento del nostro modo di essere nel mondo. Invece la relazione postmoderna indica nel sistema globale il nostro punto di riferimento di essere nel mondo. Ecco l'importanza del vivere, del fare cinema, del fare letteratura nel mondo globale. Mm-hmm. Un punto di riferimento che non può non tener conto del dominio. Il dominio è tecnologico, il dominio è sull'ambiente e poi il dominio attraverso la finanza. Non si può non tenerne conto perché incide, per esempio, sulle nostre parole, sul nostro atteggiamento. Prendiamo Gomorra. Tu hai presente Gomorra? Sì, sì, sì, sì, sì. Ecco, Gomorra, 2008, Gran Premio a Cannes, di Garrone, ma parte da un libro che non è certo provinciale come quello di Saviano. È stato tradotto in molte lingue. Ecco, 57 passi e continua a essere un punto di riferimento. Mentre le parole, ti voglio essere semplice, proprio perché se no mi porti lontano tu. mentre il libro usa le parole per come denuncia, e Saviano fa una denuncia, nel film le parole sono espressione del dominio che regola i rapporti tra le persone che vivono alle Vele e a Scampia, a Napoli, dominate appunto dalla Camorra. Le parole sono parole di minaccia, di ordine, di offesa, mai parole di espressione di qualcosa di personale, indipendente dall'agire. Mm-hmm. E quindi siamo in un universo globale in cui il dominio ci pone nella necessità di essere in relazione, appunto, relazione postmoderna, in relazione con l'altro. Non siamo più un individuo semplicemente, siamo un insieme. Ecco perché la posizione del mondo è una posizione che sta cambiando proprio dal punto di vista della cultura. Sì. Ma la cultura non è una cosa alta, vedi Tarantino, no? E vedi anche Gomorra. La cultura non è una cosa alta. Il vantaggio del postmoderno, questa cosa positiva, è che ci dimostra che tutto quello che era il cinema di serie B, di serie C, la realtà, i fumetti che piacevano anche a Calvino, no? Vedi le cose di comiche, tutto questo mondo è un mondo importante, è quello di cui la gente vive, mm-hmm. è quello che la gente sente. E in questo mondo c'è il rapporto, la relazione come protagonista. Ecco, credo di avere un po' dato un'idea. Sì, sì, sì, proprio questa relazione. Ecco, Caterina, visto che la tua ricerca si è sviluppata nel tempo in più tappe, che sono poi altrettanti libri. Sì, l'altro era Lo sguardo multiplo, addirittura dal titolo si capisce, di 4 anni fa, sì. Sì. Ecco, questa relazione tra cinema e letteratura come si è sviluppata nel tempo? E in che rapporti sono? Nel tempo? Abbiamo detto che dall'origine praticamente c'è sempre stato un rapporto. Cos'è Jane Austen? Orgoglio e pregiudizio continua a essere rappresentato e a diventare cinema da sempre, no? Cioè sì. C'è un rapporto strettissimo. Il cinema, diceva un teorico della letteratura come Sklodsky nei formalisti russi, nasce costituito da personaggi e da paesaggi. E da dove vengono personaggi e paesaggi? Dalla letteratura. Certo. Solo che il cinema ha l'immagine. Arriviamo all'altro dominio importante, il dominio delle immagini. Mm-hmm. Dice Jameson, uno dei più importanti studiosi del postmoderno, oggi un'immagine ha come contenuto che cosa? Un concetto? No, no, un'altra immagine. ma questo è molto significativo, sì, perché da una parte le nostre parole sono sempre più parole di dominio, cioè io voglio in qualche maniera, anche adesso voglio farmi capire, in qualche maniera propongo me stessa in un qualche modo, mm-hmm. E c'è una forma sottile, no, di proposizione, forse autoritaria dovuta ai mezzi. Io cerco di non esserlo, per carità, però è così. L'immagine invece ti libera totalmente, ma ti libera talmente tanto che tu hai in Tarantino un gioco talmente folle, lo chiamano il ladro di cinema, vedi Django Unchained adesso, no? Sì, ruba da Corbucci, come ha rubato in Kill Bill dal kung fu cantonese, dalla yakuza giapponese, dalla fino alla musica, sì. Ha rubato, però ha traghettato anche in qualche maniera, e dell'immagine cerca di costruire un mondo che lui crede che sia libero. Su questo io sono polemica, non è affatto libero, conferma la presenza della globalizzazione e del problema del dominio, perché il suo mondo impone al pubblico questa ricerca affannosa di riconoscimento. Mm-hmm. Devi riconoscere, per esempio, non so, ti ricordi Madsen, l'autore che ha fatto il taglio dell'orecchio nelle Iene del 92, quella scena sadica stupenda, un caso di cinema eclatante che spaventò tutti. Beh, quell'attore lo devi riconoscere se vuoi veramente divertirti in Kill Bill volume 1, quando lui lo vediamo che pulisce i cessi, lo devo dire ragazzi, che non c'è niente di... pulisce i cessi, cioè quello che era il torturatore diventa un poveraccio che subisce. Il genio di Tarantino sta nel rovesciamento, mm-hmm. del dominio da dominante a dominato, però in questo c'è un'intelligenza. Sì. C'è un'intelligenza del nostro mondo, sì, il nostro sì, mondo sì. Che ormai è così, insomma, no, gira intorno al dominio, e lui impone contemporaneamente al pubblico il riconoscimento. Se tu quella scena la vuoi capire veramente e ci vuoi anche ridere, perché questo è alla fine, vuole anche lui, uomo di spettacolo, deve riconoscere quell'attore di quel film. Non è forse una sottile forma di dominio? Mica tanto sottile. Vai a vedere Django Unchained. Sì, sì, l'ho troverai, visto. L'hai visto? Sì, sì, sì. Trovi lui appeso, no? Quando lo Django, Jamie Foxx. C'è il rischio che appeso a testa in giù lo evirino, cioè gli tolgano i genitali. E dura parecchio quella scena. Se tu come pubblico vuoi sapere come finisce, se finisce bene, te la devi sorbire. Qual è dunque la posizione di Tarantino verso di noi? Una posizione di un certo potere. Sì. E tuttavia l'immagine ci rimarrà dentro, è una bella immagine perché è impressionante, è cinematograficamente efficace, ben fatta. E quando dice Jameson l'immagine ha per contenuto un'altra immagine, pone il problema. Non so se ti ho risposto un po'. Sì, sì, sì, sì. Senti Caterina, il tuo libro, ci saranno altre occasioni di presentazione? Ne farò senz'altro, ma tu dici a Roma? Beh, sì, ma non necessariamente. Ancora, insomma. Ma io penso, no, penso di forse Bologna e Napoli, mm-hmm. perché ho amicizie anche lì. C'è la Cineteca di Bologna, c'è il museo, l'Università di Studi Orientali a Napoli, quindi ci sono tante cose. Certo. E direi che si presterebbe parecchio anche, no? Proprio perché Padania da una parte, purtroppo Napoli ha questo problema. Del rapporto con la malavita, e forse direi che questi autori vanno benissimo. Pellocchio è uno di cui si parla meno, ma io invece ne ho parlato tanto. È stato anche nostro ospite per Bella Addormentata. Ecco, mi fa molto piacere. Ho perduto la puntata, però io ne ho parlato di Bella Addormentata dal punto di vista, ovviamente, il titolo del paragrafo che riguarda Bellocchio, un po' tutti i suoi film più importanti, è il contrappunto. in Bella Addormentata c'è un feroce contrappunto, quello appunto tra potere e affetti, no? E tra l'altro in quell'occasione o in un'altra occasione ospitammo anche Erlitzka che, che nel film di Il Bellocchio fa un bellissimo ruolo, insomma. La presa in giro totale, una grande consapevolezza del mondo politico e dei suoi limiti enormi. Sì. Però è anche Aldo Moro, ecco lì per esempio, possiamo farlo noi un giochino postmoderno, ma serio, ecco lì lui non può essere percepito al di fuori del fatto che ha interpretato per Bellocchio Aldo Moro in Buongiorno Notte del 2003, eh sì. E dove abbiamo una scena stupenda, ho ancora un po' di tempo? Vai. Un'inquadratura stupenda, che è quella in cui, sai che il film è preso dal libro di Maria Laura Breghetti, sì, che era una delle terroriste, però era una è una donna, insomma, è ancora viva. E quindi il suo mondo è un po' diverso. Ecco, quell'inquadratura a cui penso io, ecco l'immagine. Lei ha un bambino un poppante in mano che poppa, che le è capitato per caso perché gli era dato una vicina che sta lì. Loro hanno affittato, i brigatisti hanno affittato questo appartamento per portarci Aldo Moro rapito. A questo punto, dietro di lei, inquadrato, lei non lo vede, comincia ad apparire qualche cosa. In fuoco c'è lei, fuori fuoco c'è qualcosa che emerge dalla stanza, è una cassa. A questo punto noi che vediamo capiamo subito, quella è la cassa in cui hanno messo finalmente Aldo, loro lo aspettavano, il povero Aldo, e finalmente per lei che lo aspettava, non per noi, e però sta arrivando. Lei non lo vede, noi nella stessa inquadratura vediamo due mondi che interferiscono tra loro, è un'interferenza violenta anche. Il mondo della violenza fisica, del dominio ideologico, quello del rapimento di Aldo Moro, il mondo del sentimento della vita rappresentato da una donna con un poppante, un neonato che poppa in braccio, no? E in una stessa inquadratura abbiamo la complessità, cioè l'idea della globalità dell'universo in cui l'uomo è chiamato a vivere oggi e della difficoltà di trovarci un ordine, un principio, e questo è il nostro vero problema, da dove cominciamo? Quando vogliamo mettere un po' a posto questo mandato paese, siamo in campagna elettorale, dico solo questo, da dove cominciamo? Non è mica tanto facile, dobbiamo fare le nostre proposte. Senti Caterina, e per saperne di più sul tuo lavoro, tu hai anche un sito di riferimento? No, un sito, ho un'email simpatica a cui potete tranquillamente accedere, la do volentieri perché non è un segreto, tra l'altro è conosciuta, essendo io giornalista iscritta all'albo, cat.selvaggi, @gmail.com. Comunque, se cercate Google, Caterina Selvaggi, troviamo anche notizie sul tuo libro, chiaramente. Ci sono tutti i libri, anche questo si trova in tutte le principali catene, insomma, non voglio fare propaganda, però fa piacere tanto sapere che ti leggono. Cioè, quando scrivi, tu dici, guarda, mi immagino queste persone, chissà che cosa capiranno, penseranno, giudicheranno, vedi il giudizio, sempre una relazione, no? Viviamo in relazione, Federico, io sono stata molto anche contenta di conoscerti. Bene, è stato un piacere. Tra l'altro, se hai conosciuto Bellocchio, che è il mio grande amore. Benissimo. Sì, un amore cinematografico. Certo, è certo. Figurati, pugni in tasca, per me è stata una folgorazione. Oh, guarda che lui ha anticipato perfino la Godard della Chinoise, che è del 67, sì. I pugni in tasca sono del 65, quindi è veramente un genio quest'uomo. E poi è un esploratore di confini, infatti io parlavo di interferenze di mondi, lui esplora tutti i confini e ci mette dentro se stesso, suo fratello, la tragedia di suo fratello gemello, gli occhi e la bocca, e però è anche la sua tragedia, perché quello è il gemello, rappresenta ancora una volta Luca Stello, stesso attore che riconosciamo in Gli occhi e la bocca, 15 anni dopo era il protagonista di Pugni in tasca, e il problema del, anche qui, troviamo il riconoscimento. Il riconoscimento sta diventando la caratteristica della cultura globale. Ci penserò. Vabbè, una proposta. Certo. Il senso romano si sente, me l'ha detto una volta un fonico, molto intelligentemente. Io non nego le mie origini. Certo. Senti Caterina, io ti abbraccio. Grazie. E a risentirci magari per una prossima cosa. Va bene? Buon lavoro. Ciao anche a te, ciao. Caterina Selvaggi, autrice del libro La relazione postmoderna, cinema e letteratura nell'area globale di Amelio, Bellocchio, Barthes, Garrone, Saviano e Tarantino. stiamo sforando, ma tranquillo Daniele. Allora, Daniele Lupi del Cine Club de Tour, lo ritroviamo sul nostro cammino. Come sta intanto? Bene, grazie Federico, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, sarò breve. Il detour bene, sta proseguendo, è iniziato benissimo il 2013 e la prossima settimana dedicheremo ben 3 appuntamenti al cinema documentario, che tanto ci piace. E martedì e mercoledì dedicheremo un po' di spazio al documentario contemporaneo, proiettando Scorie e Libertà, l'incredibile avventura del nucleare in Italia di Gianfranco Pannone, che tu so che già hai ospitato, mi pare, mi stavi raccontando. Sì, Pannone è spesso e volentieri nostro ospite, credo l'ultima volta proprio per Scorie e Libertà, se non sbaglio. Sì, diciamo, a parte Ebrei a Roma, che ha il, diciamo, Scorie e Libertà, il suo ultimo lavoro, e parlare del nucleare in queste giornate di campagna elettorale, no, ci sembrava giusto, perché è una di quelle cose di cui non si parla mai in campagna elettorale, e poi dopo un po' di tempo di questi argomenti scomodi se ne torna sempre a parlare, e male. Anche perché si parla nel documentario, appunto, dal titolo già, Scorie in Libertà, e di scorie ne siamo pieni. Sì. Mentre invece nel fine settimana, sabato 2 febbraio, dedicheremo una serata ad un documentarista scomparso nel 2012, Giuseppe Taffarel, poco conosciuto ma un documentarista molto importante e da riscoprire. È una rassegna che si svolgerà in 5 giorni, in 5 spazi diversi della cultura e del cinema romano. E insieme alla Cineteca Nazionale, insieme all'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio, Casa della Memoria e della Storia, insieme all'Apollo 11, delle realtà che mettono insieme i loro schermi per dare visibilità a lavori da riscoprire. Noi faremo 2 cortometraggi di Taffarel. Taffarel, consideriamo, ha girato circa 300 documentari dal 1942 alla fine degli anni 60, oggi soltanto pochi di questi sono visibili. Noi ne faremo vedere un paio e poi faremo vedere un lavoro su De Seta, perché secondo noi sono documentaristi di pari importanza, anche se uno molto conosciuto e l'altro poco conosciuto. Oh, dato che ci siamo, Daniele, tu mi avevi invitato al Detour a dicembre per una delle serate che avete dedicato a una rassegna su Mario Monicelli, Mario Underground, visto il rapporto che aveva con la Radio Onda Rossa con Visionari in particolare. Ti chiedo anche un bilancio di quella rassegna dedicata a Mario. Grazie Federico, sei molto gentile a farmi questa domanda, perché la rassegna è andata molto bene e ci ha dato grandissime soddisfazioni. Tra l'altro, per coincidenza, pochi giorni fa abbiamo avuto ospite qui da noi Luisa Morgantini, e proprio con lei ero tornato a parlare di Lettere dalla Palestina, il lavoro che presentammo insieme, perché la Morgantini fu con lei che aprì la pista, insomma, la produzione di Berardi a tutti i cineasti, perché Lettere dalla Palestina era un lavoro collettivo, lo dico per gli ascoltatori, e diversi cineasti entrarono nella striscia di Gaza e a Ramallah e a Jenin con le macchine da presa, anche grazie al lavoro diplomatico della Morgantini. Quella era la serata di apertura di Mario Underground, che è proseguito benissimo, i lavori, sia quelli, i film Temporale Rosi e Proibito, sia invece i documentari di Mario e su Mario, sono stati molto apprezzati. Abbiamo avuto una media di almeno 40-50 spettatori per sera, e anche tutti gli ospiti che abbiamo avuto sono stati entusiasti delle giornate, delle serate. E mi prendo la libertà di dire che sabato 16 febbraio e al Detour daremo la versione di Mario, film di Pirma Labbate. Vabbè, ci sarà modo per ricordarlo nuovamente. Altri, sì, che non avevamo avuto l'occasione di passare in quelle giornate, quando ricordammo Mario Monicelli con Mario Underground, ma che ci eravamo riproposti di passare nel 2013, e lo faremo sabato 16 febbraio. Bene, allora ci risentiremo in quell'occasione sicuramente. Diamo come riferimento, Daniele, il sito internet del Cineclub de Tour per questi appuntamenti che ci hai ricordato? www.cinedetour.it. Benissimo. Daniele, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie Federico, a presto, grazie, un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao. Bene, Daniele Lupi del Cine Club de Tour, e con lui finiamo l'appuntamento con questa settimana per quanto riguarda Visionari, che torna giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, con questo anche con la possibilità di ascoltare la trasmissione e la radio in generale in diretta, perché c'è in streaming sul sito della radio, sulla home page c'è l'opzione ascolta la diretta. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Abbiamo anche una pagina Facebook. Per quanto riguarda invece il sito internet della radio, ci trovate alla voce trasmissioni e visionari, dove trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 24 gennaio, con i suggerimenti poi dei film già in programmazione a Roma e provincia, con anche qualche link relativo alle recensioni, alle nostre recensioni, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana tra festival e rassegne in giro per l'Italia, e poi il link che rimanda all'ultima puntata e all'archivio del 2012 e 2013.